Con Paolo Piacentini di Federtrek per parlare della giornata nazionale del camminare, domenica 14 ottobre 2018. Paolo, ben trovato. Ciao, grazie a voi, bentrovati a voi. Questa Edizione è questa? è la settima edizione ed è, devo dire, molto importante perché quest'anno, nonostante i nostri sforzi, diciamo, non sono stati altissimi, avevamo qualche problemino in più rispetto a delle risorse umane, però i nostri volontari sono stati straordinari, per cui ci sono già più di 120 iniziative inserite nel sito giornata del camminare.org, altre arriveranno perché poi alcune arrivano anche all'ultimo momento, ed è di nuovo un successo in tutta Italia, iniziative molto variegate, si va dalle camminate magari per conoscere la natura in campagna o nei boschi, che ne so, nel caso ad esempio nel Lazio sono più di 40 iniziative, tantissime nella Tuscia ad esempio, e conosce anche i piccoli borghi, ma ci sono cose molto belle, ad esempio a Roma c'è un'iniziativa di una camminata veramente importante perché proprio nella periferia romana, quella un po' più degradata, insomma la zona del Trullo, la zona appunto di periferie che di solito vengono sempre dipinte, no, in modo negativo, invece noi stiamo facendo un grosso lavoro proprio di recupero anche di rapporti sociali attraverso anche la pratica del camminare. Quindi insomma di nuovo un'edizione molto bella, importante. E poi il camminare è qualcosa che ci riconnette col mondo, ci riconnette con le nostre città. Noi volutamente abbiamo fin dall'inizio puntato a una giornata che sensibilizzasse sul tema del camminare in città. Dedicheremo, abbiamo proposto di dedicare un minuto di silenzio per ricordare i morti da vittime della strada, l'ultimo a Roma purtroppo un ragazzo di 17 anni, Tommaso, che è stato investito su strisce pedonali mentre andava a giocare, si recava a giocare a basket, ad allenarsi. Ecco, queste cose credo non possono più accadere. Stamattina un intervento in ISPRA, sempre per parlare del camminare, ho ricordato i dati dell'OMS. Noi abbiamo ogni anno, nella fascia che va dai 15 anni ai 29, tra l'altro è la fascia più alta di morti per incidente stradale, abbiamo ogni anno nel mondo 1.250.000 morti. A causa di incidenti stradali, la maggior parte sono pedoni e ciclisti. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo assolutamente, su cui dobbiamo intervenire. L'Italia pure, insomma, è schiacciata purtroppo, ahimè, molto male, perché sono migliaia di morti l'anno. Quindi diciamo che camminare in città è importantissimo, fa prevenzione, aiuta le città a disinquinarsi, ma dobbiamo ricordarci, noi che siamo anche guidatori di macchine private, che la prima cosa che si può pensare è che siamo tutti pedoni e quindi quando guidiamo dobbiamo stare con 8 occhi, non 2 occhi, non distrarci, magari spegnere addirittura il cellulare se è possibile, comunque non distrarci, fermarci se c'è da fare una telefonata, perché non è più possibile, insomma, che il gesto più naturale, più bello, più ecologico, che ha portato l'uomo a decidere la storia, appunto, delle migrazioni, la storia umana, possa essere così, siamo inibito dalla nostra follia, dalla nostra dipendenza dalle auto private. Paolo, in parte già lo hai accennato, ma com'era nato tutto 7 anni fa? Era nato appunto perché noi comunque l'anno prima avevamo fondato la Federtrek, da esperienze che venivamo insomma dalla Federazione Escursionismo, da tantissime esperienze, quindi diciamo un'aggregazione di associazioni molto escursionistiche, però a un certo punto io e l'editore della rivista del trekking stilammo, questo fu addirittura nel 2009, stilammo un manifesto del camminare che riprendeva il tema della lentezza, partendo proprio da quanto il camminare fosse importante partendo dalla città, cioè dalla mobilità urbana, e quindi decidemmo a un certo punto di lanciare l'idea di una giornata nazionale dedicata al camminare, la seconda domenica d'ottobre, e fu un successo già dal primo anno. Poi chiaramente noi ci aspettiamo di più dalle istituzioni perché aspettiamo di più magari sugli interventi per ridurre il traffico privato, per la pedonalizzazione, per le zone 30, quindi andare a 30 all'ora. Tra l'altro vorrei ricordare sempre un dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è molto importante, che prevede per l'agenda 2030 al 2020, addirittura alla metà quantomeno, questi dati pazzeschi di questa tragedia, di uccisioni, che se io vado a 30 all'ora in città, a questo punto lo ricordo anche in questo studio, può darsi che se investe una persona, pensava anche a un bambino, ancora peggio, magari questa persona si salva se vado a 30 all'ora, ecco perché si insiste molto sulle zone 30 in città. Se vado a 50 e rischio che questa persona possa morire è del 20%, se vado a 80 all'ora è oltre il 60%, cioè se io vado a 80 all'ora oltre il 60% delle possibilità che quella persona a cui ho investito possa morire. E adesso mi stanno cercando in questi giorni anche gli studenti del Righi, dovrebbero ricordare in qualche modo questo ragazzo meraviglioso, questo Tommaso, e speriamo insomma che questa giornata serva per un'ulteriore sensibilizzazione e approfittare di un momento storico anche molto particolare, non solo il tema della sicurezza stradale, ma anche del disinquinare le città, lasciare la macchina a casa, ma anche il tema dell'incontro, perché camminare significa incontrare l'altro, significa socializzare di più, significa incontrare anche religioni e culture diverse. Noi facciamo anche camminate interculturali, interreligiose, insomma. Quindi camminare a 360 gradi, anche questa è un po' la giornata, perché sono a vedere appunto da giornadadelcamminare.org, vedo tutte le iniziative, può vedere quanto è vario, diciamo, lo scenario, ecco la proposta. Ecco, in questo senso ci sono diversi tragitti di diversa lunghezza e impegno? Sì, c'è chi fa il tecnico urbano anche di 20 km, che fa 5 km. Io forse molto probabilmente andrò, quest'anno di solito sono su Roma, nelle situazioni principali, e a Roma facciamo delle aggregazioni finali, tipo 3.000 persone che arrivavano da ogni angolo. Quest'anno abbiamo lasciato fare un po' ognuno. Io forse farò un salto, credo, a Castel Sant'Angelo sul Nera, anche lì si camminerà nel cuore del sisma, dell'Appennino ferito, perché anche attraverso il camminare si può aiutare la rinascita dell'Appennino. Lì abbiamo un progetto stupendo per il cammino delle terre mutate, che tra l'altro insomma tu conosci. Sì, e quindi sì. Forse mi recherò in quella terra ferita per dare anche un segnale di forza anche in quei territori, anche attraverso appunto questa nostra iniziativa nazionale, insomma. Materialmente come funzionano gli appuntamenti, Paolo? Appuntamenti basta andare sul giornale del cammina.org, andare sugli eventi, vedere quello che ti interessa della tua città, della tua regione, e poi contattare l'associazione di riferimento. Non si paga nulla, non si deve pagare nulla, a meno che non c'è un'assicurazione giustificata, un qualcosa che però non sia, diciamo, a scopo di lucro per l'associazione che organizza, no? Perché noi, diciamo, il marchio è FederTrek, ma ci sono associazioni ovviamente che sono autonome, cioè che mettono il patrocinio FederTrek. Tra l'altro l'iniziativa è patrocinata anche dal Ministero dell'Ambiente, quindi diciamo basta appunto andare sul sito, scegliere l'evento, chiamare il responsabile, il telefono, e prenotarsi e andare. Poi il limite, se uno sa che c'è un appuntamento, anche senza chiamare va lì, insomma, e cammina, ecco, è abbastanza libera la cosa, insomma. Allora, ricordiamo, settima giornata del camminare, domenica 14 ottobre 2018. Le informazioni sono sul sito giornatadelcamminare.org. Un saluto e un ringraziamento a Paolo Piacentini di FederTrek. Paolo, un abbraccio. Grazie. E a presto. A presto a te. Ciao. Ciao.